10. Chi è avanti? Ciao Luca, beh, grazie a combinare. Ciao Robert, mi siamo in 446081. E chi c'è? Io, Pompucco e Natalino. Perché 446? Che cosa, canale 45? No, PMR. Ah, vabbè, non mi interessa qua. Che regala, bene, sta arrivando, sì. Invece uno Smith mi sale, scende, non so cosa cacchio gli ha preso. Se me lo stai erogando un fatto, ma sei a casa tua? No, no, 9:05. 9:15 qua. Beh, non lo so. Guarda se, aspetta, ti lascio la portante un attimo. Guarda se oscilla il segnale. No, no, i picchi sono positivi, sei stabile, è importante fissa, sei stabile. Non lo so. 9:10, quando quali 9:15? A breve dovrebbe entrare Salvedio. Che adesso con Danadi senza sentirlo, ma almeno quando. Da quando è che no? Quando era in pizzeria, 3 anni fa mi pare l'ultima volta che l'ho visto a Salvedio. Non era quella pizzeria di Via Graziale dall'inizio, come si chiama? Così in camera. Camera del della figlia. Praticamente a quanto ho capito è caduto in terra e si è rotto sta parecchio. Allora ha deciso di comprarsene uno uguale, siccome quello è modificato Colt e si vuole passare tutte le modifiche in quell'apparecchio lì. Poi dove si fa una specie di mobiletto, un lucchetto, ci mette tutto dentro, chiude, così non toccano niente. Così. Ho visto proprio oggi su internet, questo Dialger lo sta vendendo un 440 con l'MC60, il microfono suo originale, l'alimentatore quello grosso della ZG da 40 ampere, poi non mi ricordo cosa ti dava, un'altra cosa, tutto a 400 euro. Quindi adesso la radio è a posto. Credo che sia un radioamatore, c'è la fotografia, c'è la scatola, tutto, le istruzioni, sembra nuovo guardandolo in fotografia, perché ha messo la pubblicata, ha messo le istruzioni, cioè e tutte le foto. Ma roba, io non ho spazio per quel tipo di radio, non mi rubongo, non c'ho spazio, proprio, guarda, giusto per il baracchino e il microfono, basta, non c'ho spazio, dovrei farmi magari un ripiano per metterla sopra, ma adesso non posso affrontare. Comunque il prezzo è buono, se la radio funziona bene, che non ha problemi, è un ottimo prezzo. Sì, perché ti fanno un MC60 che guardando le foto sembra nuovo, la radio completa anche dell'altro microfono, e più ti sanno un alimentatore, quello grosso della ZG, non so se l'hai mai visto, quello con due strumenti da 40 ampere continui. Ah, ho capito, ma come anche questi switching, questi cinesi, quello che c'è 50 ampere. A proposito, se c'hai da apprezzare, devo fare un lavoro per la parabola, non c'è un alimentatore che tiri almeno 30 volt? Un alimentatore 30 volt? Chi robe? Come faccio? 30 volt? E più o meno, quali sono? A cosa serve alimentare questo alimentatore? Allora, la parabola è motorizzata a 36 volt, l'assorbimento massimo mi sembra siano un paio di ampere, dai, fai 3 ampere. Quello del computer, quanti volt arrivano alla tensione massima? 19. No, 19 è poco, perché l'ultima volta che l'ho provato, cacchio, ho dovuto salire da officina col caricabatterie, quello grosso che abbiamo, da 250 ampere, ma pesa 40 kg, e tira 28 volt, tira in carica, quando sta caricando fa 28 volt, e lo muovo lo stesso, va bene anche 24 volt. E io pensavo arrivasse di più il computer. Guarda roba, potresti fare così, però no, non fa, no, perché allora io tramite un circuitino, no, lo uso per testare i LED della TV, e arriva a 27, mi pare, 26, quasi 28 volt. Come lo fai per farlo? Praticamente è stato creato con questo circuitino piccolino, l'ingresso ha una batteria di telefono, quelle batterie di tablet da 3,7, ti dà l'ingresso e ti butta fuori quasi 28 volt. Sì, bisogna stare attenti a quelle batterie dei cellulari, quelle sono a litio, quindi se scoppiano quelle lì. Ah no, ma dei cellulari o del computer le batterie? No, cellulari, non scoppiano, già scoppiano. Come fanno a scoppiare? Comunque io riesco ad accendere anche il baracchino, non va in trasmissione, lo metto a 12,13 volt, 13,5, là, così, e mi accende anche il baracchino. Cioè ti aumenta la tensione, dici? Sì, sì, c'è un regolatore di tensione, certo, da parte da 4 a 28 quasi. Io mi ricordavo, i computer ci avevano intorno ai 27-28 volt, oltre le uscite a 12, 10, 8, cioè non vedi usciti quelli alimentatori dei computer. No, no, ti sbagli roba. Ah sì, ci sono quelli regolabili, sì, è vero, 12, poi arrivano 12, 19 o 16, mi basta, non mi ricordo, forse 16, 19, 24 e 30 volt, sì, devo ricontrollare, se c'è un altro odore, ma tu non me ne fosse nuda, mi sa che ne ho uno grigio che parte, che arriva a 24, mi sa. Ma stiamo parlando di quelli degli alimentatori dei computer, quelli fissi, o tu di cosa stai parlando? Non ho capito, fammi capire. Ma tu lo vuoi fisso, del PC fisso? No, io me uno qualsiasi, tanto è solo per fare delle prove di movimento, alla parabola quella grossa, perché se probabilmente è leggermente spostata, però lo voglio fare da su con lo strumento anziché mettermi giù che viene male, così è più preciso il lavoro. I computer, quelli, parliamo i case, quelli vecchi, quelli da base, non i portatili, c'erano quegli alimentatori da 500 watt, 400 watt, e c'erano delle uscite, con tante uscite, io sto parlando di quelli, tu di cosa stai parlando? Ah, io sto parlando di quelli portatili, quelli arrivano a 19, allora quelli dei fissi fanno 6-12 volt. E boh, non fanno altre tensione. Ma non che li accoppi. Ma che cazzo fa? È un casino, roba. Non penso che, no, per quanto lo so io, se io ce l'ho uno, lo posso anche dare, ma arriva a 12. Perché qualcuno li ponticellava, li metteva in serie, per dire, faceva 6 più 12 e arrivava a 18, oppure 12 più 10 e faceva 22, però bisogna sempre conoscere bene i colori e il collegamento, perché se tu li colleghi in serie si sommano le tensioni, se li metti in parallelo aumenta la corrente. Aspetta. Vabbè, c'è un trasformatore io qua, un compressore di quelli per separatore, l'uscita era 24 volts, capito? Siccome ci sono due uscite, prima te lo prendi, così ti fai, come si chiama, li metti un po' più di grezza, fai quello che vuoi, così sei tranquillo. Comunque c'ha due uscite, vieni te lo prendi. E a quanto è l'uscita, voglio capire? 24 era, perché è scritto 24 volts. In pratica pilotava il motore e il compressore da una parte e poi il isolatore dall'altra. Quindi vedi tu, io penso che sia 24 e 24, 24 e 12, una cosa del genere. C'è un ingresso e due uscite, c'è il trasformatore. Oh, scusi, ma deve essere corrente continua stabilizzata, non è? Trasformatori ne ho anche io, che hanno diverse uscite, però ci vuole tutto il circuito poi per livellarlo, eccetera, eccetera, non è un trasformatore così, no, ci vuole un alimentatore, non un trasformatore. Allora non so cosa dirti, io c'ho un trasformatore ed è così, a meno che non... Una cosa la puoi fare, solo una cosa. Ci vuole il lineare, quello che ho io, in pratica se la tensione è stabilizzata, l'uscita del lineare 24 volts ci vuole, del BU 2002 quello che ho io, quella è la uscita stabilizzata, però ti va solo 24 volts, non te ne dà altre, e continua per il lineare. No, adesso vedo, ho pensato fosse più semplice, ho pensato a quegli alimentatori switching del computer, ho detto quelli cinesi, ho detto magari qualcuno ce ne ha buttato qualcuno di quelli lì che hanno diverse uscite, mentre tu Luca mi stavi dicendo ne hai uno di computer portatile, quanti volte arriva quello del portatile? Perché io ne ho uno, però arriva a 19 volte di quelli che cambi la tensione, Antone, che c'hai, che puoi fare 9, 12, 18, 19 volte mi sembra, 3 o 4 tensioni, cioè, però è troppo poco. Vuole di più. L'unica cosa, se riesci a pilotare 24 volte ti puoi agganciare alla linea trasformatore che ho io, ti aggancia a quello, ci metti due pinzette, una più, una meno, e c'hai 24 volte, e c'hai 30 per uscita, già dovrebbe bastare. per muovere il motore. E il BV 2002 è quello che ho io, sta sincronizzato. Altro non ne hai. C'è poco da fare, c'è il circuitino, anzi 5 tonne grande, se mi sbaglio sono 12 conversatori, che va dentro la pressione per lineare, quindi più di così non puoi fare. Cosa vuoi che dica io? Uno ho lavorato io a coso, al camionista, che adesso non mi ricordo come si chiama, e però si pilotava tranquillamente un 750, figurati tu, lineare, senza essere raddrizzato, senza avere la stanza a fare niente. C'era il trasformatore dentro, e si è fatto l'uscita per lanciare due lineari esterni, figurati tu. Il problema è solamente quello, altro non ne ho di cosa. E vabbè, te l'ho presente, dai, eventualmente, ma se c'è qualcosa di più semplice, più comodo da utilizzare, sai che c'era, chiaramente tu a Giuseppina Domenico li hai conosciuti tu, Antonio? Non ho capito, conosciuto? Sei conosciuto a Domenico e a Giuseppino Caso, conosciuti li hai? Sì. Loro c'avevano proprio un alimentatore a 36 volt che commutava, c'era un commutatore che ti invertiva la polarità, per dire, quando giravi da una parte il commutatore la parabola andava a destra, invertiva la polarità e andava a sinistra, ti faceva anziché attaccare il filo ogni volta a girare. Loro ne avevano uno, chissà che fine ha fatto quel cazzo di apparecchi. Cosa vuoi dire? La verità non ce l'ho neanche io, una cosa del genere. Con 24 volt non è che fai molto, non è. Se te la fa nuova la parabola, secondo me, poi non lo so. Il lineare che ho io ha 24 d'uscita. E c'era solamente due cavi. Poi quel trasformatore che ho io, ti sto dicendo che quello devi fare il circuito di radiazione. Ci metti un puntino di iodi, un bel po' di condensatori, collegati in parallelo e cose del genere, e poi fa di uscita al limite 24, dovrebbe essere 24-24, penso, non, adesso non lo so, o se sia 24-12, questo non te lo so dire. L'ho smontato l'altro giorno, perché di una base saldante, di quel modello vecchio, che ha il motore per aspirare, hai capito? Sì, sì, ho capito, però se è quello che funziona per dire che non c'è bisogno di stabilizzare, c'è il rischio che mi fa danno a tutto il circuitino di dentro, perché deve essere stabilizzata e filtrata, perché se ci sono residui di alternata mi sfascia tutto. Vabbè, vediamo se è entrato Luca. Luca, ci sei? Però sta uscendo la voce tua, la sento troppo cupa, Antone, come mai si sente così cupa? Sto usando l'FM500S. Si sente un bel rumore di fondo e poi la voce come che stai parlando con la microfono attaccata alla bocca. No, adesso è attaccata alla bocca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come? Come che manchino gli acuti, si sente? Vabbè, ti pari apparecchio, cosa devi un po' sopra. Anche l'Inter che la stai sentendo qualcosa. Il 340S c'ha il sistema che senti la modulazione cupa. Esce meglio questo, se ti metto quel microfono palmare mi senti più male, quindi a meno che non aspetta il gancio il 3009 faccio prima, là. A meno senti appena appena la ventola, se la piglia in culo e sei più tranquillo tu. Ehi, aspetta, c'è qualcuno che chiama, avanti, che chiama su 10, che è avanti, non si sente più nessuno. Luca, ci sei ancora? Avanti, che fischia. Beh, sente male. Tu sei tu? Ecco, sei Antonio, sono. Infatti, sono accesa la volta, no, ho visto il segnale. No, c'è questo qua che sta fischiando. Avanti, che fischia. No, ho fatto io due fischi nel canale dietro. Ah, sull'Overi. Per vedere se stava andando qua, Pensavo fosse un altro, infatti ho detto, ma perché non risponde? C'è quanto? Beva adesso. Sì, la radio adesso va meglio, a parte tutto questo rumore di lavatrice o cosa vabbè. E cosa? La ventola, già lo sai, adesso sto preparando l'altro alimentatore, ho svuotato quella custodia, come si chiama, custodia, vabbè. Ho tolto tutto da quella specie di saldatore. tanto la spina spagna di quelli professionali, hanno tolto tutto. Io mi sto mettendo l'alimentatore, quello cinese, all'interno, sto facendo la modifica. La ventola la metto nell'angolo dietro, così almeno si sente molto di meno. E così, e poi mi faccio le uscite, mi metto quattro manuale femmina in modo da poter utilizzare quella roba lì, qualsiasi apparecchio. Dopodiché li metto l'attacco a scendere i sigari, così posso usare anche quegli apparecchi omologati di quelli che sto vendendo l'ultima generazione, sono tutti con l'attacco a scendere i sigari, sono quanto sembra. Vai a tu. Campa, dai. Campa, come di segnale? Buono è. Sì, è buono, ma mi sembra troppo forte il radio. Hai toccato il volume alla radio, al microfono. No, c'è però lo stesso. Ma quanto ce l'hai tu? No, non è quello grande. Che cos'è questo? È la lampa da 7. Aspetta un attimino. Cazzo, sono cucito. Guarda, sembra un po' meglio così. Aspetta un secondino, così te lo dico con esattezza, prova a parlare. 1, 2, 3, prova. Ora. Abbassa se è troppo alto. Non era buona. Hai zitta. Qua invece va bene così. Ma cos'è, il microfono a tavolo o da tavolo? A tavolo, l'MB più 4. E allora abbassa un bel, se è molto alto. Se abbasso non mi intendi più nessuno, no? Dai, te lo dico io quando abbassare, poi se ti piace altro lo tieni alto, sono di surci, va a parlare. Va bene. Hai detto che abbassi, cazzo, ma che tu no. Tu c'è Guga. Va a vedere così, un po' meglio. A quanto c'è il microfono? A metà più della metà. A metà ce l'ho. Abbassa ancora un bel. Dai, non esagerare. Ora, guarda a vedere, ora. A quanto l'hai portato? No, il mio che è abbassato un po'. Ma del microfono o della radio? Della radio. Prova a parlare un po'. 1, 2, 3, prova. Un passaggio più lungo. 1, 2, 3, prova, radio, guarda a vedere. Ma se non alzi la voce così va bene, Antu. Cappa. Sei proprio al limite. Se tu alzi appena la voce, oppure ti avvicini e distorci. Vabbè, un bel forte. Mi segnale come buono. 9.30, un peluzzino più di 9.30, sì. Già va bene. Aiutato sì con questo. Sto facendo scaldare, sempre il remo. Aspetta, che cos'è che radio mi ha detto te? Ah, 87, già conosci un buon pugno, care. Ma tu non hai avuto un'altra di radio? Sì. Quell'altro sempre baracchino, che cos'era? Cosa è? L'Intec. Ma c'è sempre, quello che uscivi sempre? Sì, che ce l'ho. E poi cosa c'avevi, l'S9, cos'era? E quello ce l'hai ancora? L'S9 non ce l'ho mai avuto io. E che cos'era quello? Tu c'avevi una radio che spingeva un bel naturale senza niente. Quella lì. L'Intec. Ehi, se vuoi l'accendo un po'. Ah, questa va benissimo, c'è una meraviglia, però mi ricordo che ne avevi anche un'altra. Sono come la dice, andate in dillo, visto. Vabbè. Dimmi qua. Ma è un controllo di radio, per favore, sto provando l'altra antenna a vedere se va bene, aspetta che sono in cuffie. Eccomi qua, ok. Allora è un controllo di segnale di radio. Segnale 69+30, la radio è forte, giusta come livello, però la sento un pochettino nasina, non è di grande qualità. No, 9.30, cioè così è. Allora, con questa antenna 9+30 è così, quindi quanto è più bassa? Così c'è 9.25. C'è l'antenna mozza, cioè. Mi hai dato sempre 9.30, 9.35. Non ho sbagliato niente, sto provando le due antenne, la comparazione con le due antenne qui. Ha ragione, ya. C'è qualcosa che non va qua. C'è qualcosa che non va, quindi così come segnale. Così quant'è roba? 9.30, cioè vuoi fatta a zero. Così come 9.30? 9.25 così. 9.25. Boh. 9.25, 9.25, aspetta che mi allontano, sono in cuffie, 9.25, affanculo, 9.25 con questa antenna, e con questa antenna invece quant'è? 9.30, però stavi scendendo di segnale, qua, e ti sei abbassato un pochettino invece. Ma smetti portante fissa. Prova con l'altra antenna, non così. Questa è l'altra antenna. Aspetta, adesso levo la potenza, ecco qua. Questa è l'altra antenna, com'è? Poco meno di 9.25, con i picchi arriva a 9.25, con l'altra arriva a 9.30. Quindi ci sono 5 punti di differenza. Eia. Va bene, ok, dai, continuate, ci sentiamo alle prossime quando capita. Grazie, ciao Antonio, ciao anche Antonello, ciao ciao a tutti. Ciao, saltoni qua, saltoni. Ehi, a te, ci sentiamo. Ah, ma se qua un mese ti accendi, no, ma l'accendo qua. Ci sono più di un mese che non l'accendo. Cosa, quello, ciao, qua comunque. Cosa, quello, l'altro baracchino. Antonella, da te com'è la situazione? Aspetta, sono in cuffia, mi allontano. Lascia perdere la radio. Questa è radio supersonic. Ora, ora, ora. Questa radio non ce n'è per nessuno. Questo è il Tannen più 3 col Galaxy. Via, attacca una e l'altra, cioè una e l'altra. Prova quei due passaggi che hai fatto poco fa. Allora, questo è il passaggio numero 1, ok, aspetta che sto fischiando, ma sono in cuffia perché devo sentire anche la modulazione. Questo è il passaggio numero 1, Antonio, cambio. 9.25. Questo invece è il passaggio numero 2, com'è la situazione? È un po' diversa. Sì, appena appena sembra che sei caricato, il discorso è quello. Si sente appena appena di cose, come se fossi attaccato con lineare appena appena. Non c'è lineare, ti abbasso la potenza, guarda, così è la massima potenza, e così è la potenza minima, e infatti, infatti il problema mio qual è? Che voglio capire perché mi satura la modulazione l'altra antenna. E infatti così, compressa rimane, no? Non satura, compressa rimane. È come se fossi attaccato, anche se non fa lo stacco, capito? Cioè, perché di solito quando c'è l'aria attaccato si nota. Tipo in compressione. Il discorso è così. Ho capito, quindi va bene così, dai. Ok. Ora, ora, ora. Così è 10 watt, l'antenna è da solito. Va bene, va bene. La radio è buona così. Ora, ma sentite. Ehi, aspetta, Anto, la radio è così buona, Antonella? Sì, sì, è perfetta, è perfetta. Secondo me c'è costruzionale cosa del genere, perché infatti questa roba qui, tipo compressione, lo fa quando magari c'hai leggermente di stazionaria. Controllo un pochettino, con loro smetto a vedere. Lo facevo anche a me una cosa del genere, quando mi mettevo a pompare, tac, uscivo compresso, capito? Se uno c'ha attaccato si nota subito lo stacco, invece tu stacco non ne hai, il discorso è quello. Fai in pratica la regolazione normale e basta. Quando cambi antenna ti succede come se fossi compresso di radio. Ehi, vabbè, ci avesse qualcosa, tanto l'impianto qua non è fatto come doveva essere. Sempre volante, anche perché non è che mi interessi più di tanto, era giusto per capire, era tra un'antenna e l'altra perché faceva questa cosa. Va bene, dai, cambio per Antonio, io vi saluto, grazie dei controlli, ciao ciao. Sì, ciao Cato. Ciao, ci risentiamo. Questo è senza niente, senza nessun aiuto, l'apparecchio, quello, l'Intec. Scusate, avanti, ciao a tutti. Claudio. Dimmi. Ciao, Vasco, ma tu una curiosità, a quanto ce l'hai il correme? Correme, allora ce l'ho con la con la moto facevo a Santiago 2 e mezzo, con la cipolla a 1 neanche. Ecco, ho qualche interferenza io qua in zona, volevo chiederlo anche per Roberto, perché ce l'ho una 7-8, figurati. No, qua è... qua è Santiago 1, 1 e mezzo, cioè basso basso il QRM. Ah sì, da me sì, Santiago sì. Quindi il problema è sicuramente io di antenna. Io ce l'ho Santiago sì, ma qua nella zona mia è sempre alto il QRM. Se vado sul canale 15, cioè da tutta la settimana questo cacchio di segnale, non so da dove viene, forse da qualche paese dell'est, boh, cioè ci sente gente parlando sotto. No, ma io qua sono proprio disturbato, ecco perché vi ho chiesto nelle zone come la partenisci, eh. Io ce l'ho Santiago 3, a volte sale a 5, dipende, vabbè, io ho il 2009 Tino, quindi vabbè, tu sei in campagna, non lo vedi a vedere il QRM, il discorso è quello, a meno che non ci sia problemi di linea elettrica vicino a te, magari trasformatore di c'è qualche trasformatore di linea elettrica vicino a casa tua e quindi ti fa quel problema lì. L'ho scontrato da ieri sera, quindi non so cosa possa essere. E basta qualche trasformatore che c'è vicino a casa, c'è anche Giuseppe Bessaluna una volta, di fronte a casa sua, dove abitava in campagna, avevamo messo un trasformatore di... capito? E quindi quando usava il baracchino faceva... ma dipende se c'era l'umidità glielo faceva, se c'era caldo per dire l'estate nulla, tranquillo, segnale zero di QRM, anche perché lì ci passavano quattro gatti, il tram e basta, non ci passava nessun altro lì a dove abitava lui. Poi un giorno gli è capitato che gli era sceso il fulmine, in pratica gli è incendiato tutto, è entrato dentro casa. E gli ha crepato la mano, ma l'ha crepato. Si distese in due, perché lui era neanche a 500 metri da quel trasformatore. Boh, se mi date due secondi, prendo il telefono e vi faccio sentire come lo sento io, aspetta. Già me lo immagino, guarda. Immagino quello che senti tu, perché io ho usato il 80, ti sto dicendo che quando... ce l'avevo qua pensato a casa, piangevo in greco, piangevo ogni volta, d'inverno o d'estate, se faceva vento c'erano i calici che era una cosa allucinante, segnale 9 e Claudio lo sa, siamo in due che lo sappiamo come il QRM lo prendevo. Allora ho dovuto modulare in FM per poter sentire gli altri, o se no mi mando a laterale, non dico metterlo, perché la M non c'è l'avverso, né con l'NB1, cioè né con l'NB1 e l'NB2 era. Aspetta, sto provando, vediamo un attimino, ma cazzo, senti quando sto ascoltando, eh. Il cazzo, quello sembra il QRM che ho io, quando accendo i coso, i portatili cinesi, 462-125, lo metto vicino al baracchino e mi fa quel rumore lì, tale uguale. Te lo faccio sentire, te lo registro e te lo mando, anzi lo posso fare anche adesso se voglio. Sono qui di quel cinese, la stessa identica cosa, o c'è qualche cosa che è in perdita lì in casa, se no una cosa non è QRM, quella sono disturbi elettrici, sono. Aspetta che prendo quel portatile e te lo faccio sentire. Oh Tino, non lo so, te l'ho mandato qua, dimmi Roberto. Ma dimmi un po', c'è qualche lampada a LED vicino o qualcosa del genere tu? Sì, ma l'ho sempre avuta, Roberto, non credo sia una cosa, una lampada qua a fianco a me, ma è di quei LED tipo lampadine con, che ne so, sei filamenti, ecco, per farti capire un po' l'idea. Non dovrebbe dare fastidio, ecco. Cioè, non l'ha mai dato. Perché più che un disturbo atmosferico, come se non un disturbo, come ha detto lui, disturbo elettrico, di qualche cosa che c'è vicino, tipo una cosa che c'è un rumore continuo, tipo un motore elettrico o qualcosa del genere, no? Cioè, se c'è qualche autoclave vicino, non è vera di cosa, però sembra un motore, un disturbo di roba elettrica. No, sinceramente non lo so, vabbè, perché l'ho riscontrato, non so se si è saputo, è passata una trombolaia qua vicino, no? Praticamente mi ha rotto un'antenna, però la mantova non l'ha rotta. Stavo pensando che aveva fatto magari danno alla mantova, ma non credo, perché è rimasta intatta, poi è stata revisionata da Fabrizio poi tempo fa, ma recentemente, ecco. E mi ha aspettato la 510 invece. Aspetta, senti Tino, guarda. Aspetta, ce l'ho acceso. Vediamo un pochettino se l'ho fatto, lo leggerò. Ma sono un po' faccendo, cazzo. Questo è poi messo, vediamo un pochettino. Una mola sembra. Guarda, non sto facendo per niente, cazzo, guarda. Poco fa me l'ha fatto. Non lo so, comunque non lo so, vabbè, fatelo girare da Claudio, l'ho mandato a Claudio. Vediamo che c'è Antonio, pure Antonio vai. Giusto qua. QRM poco e niente in questa zona qua. Non lo so, cioè c'è sempre a Santiago 1 così. D'inverno quando piove appena me lo fa. C'è un po' come di QRM, se no è sempre normale. Infatti chi c'è. Sì, ma poi non è solo in questa radio, è anche negli altri, quindi in un primo momento ho detto ma forse prende qualche cosa alla radio, invece anche nell'HR 5005, nel Lincoln, nell'altra parte, sento questa fastidio. Boh, vabbè, ma aspetteremo, non so cosa possa essere. Chissà cosa. Se c'era qualcuno che vuole entrare, avanti che vuole entrare. Ho cambiato baracchino. Si è scacciato il baracchino? E ho chiuso il cartoio e un attimo devo diventare mezzo premio. C'ho un problema anch'io, c'ho. Se tu usi un, come si chiama? Un portatile con i cinesi te la cogli subito, ti fa la. Quel problema. Aspetta che te lo mando al telefono, lì. Così almeno lo senti. E aspetta, c'è un disturbo lì. C'è un disturbo lì, come lì? Eccolo qua, aspetta. Automatico si elimina. scusate che mi devo allontanare la radio, a dopo. Ehi, ciao a te. Vediamo qualcuno che vuole entrare. Su 10 c'entra un paio di cose, forse propaganda. Avanti che vuole entrare. Riprendi Antonio. Aspetta che mi dai un altro controllo, come va adesso? 9.25 sei qua. 9.25, che radio stai usando? 4.40? E io. Vabbè, ok, dai, va bene, ci sentiamo dopo. La radio com'è, buona? Sì, sì, è chiara, non è, diciamo, eccellente, no? Però il 5, dai, non ti posso dire niente. Un po' nasina la sento, dai, un po' metallica. Sempre la stessa, mi roba. Sempre la stessa, un giorno c'hai l'orecchio buono, un giorno non ce l'hai. Sempre la stessa radio, lo sai che io non tocco niente, questo è il Tane più 3 con il Galaxy Saturn. Ok, sempre quella la radio. Va bene. Eia, ok, e chi c'era? Antonio, avanti. Guarda se sparisce il nasino, togliendo questo eccesso di coso. Guarda, se va meglio così. Sembra di sì. Così va meglio, quindi, rispetto a prima. Allora, questo è il passaggio numero uno, questo è il passaggio numero due. Qual è il migliore? Numero due. Numero due, vedi, quindi... Va bene, una col Michigan a me e l'altra col Michigan a 5, così, queste radio sono così, no, beh, comunque, già va bene lo stesso, eh. Grazie mille, a frappè, ciao. E io, ciao. Adesso Bobby, c'è lui è questo, senti, eh. Ora c'è solo la parecchia c'è di qua. Che ti metti a filare qualcosa, ma poi quell'altro apparecchio, quello serio, diciamo, quello grande, ce l'hai ancora? No, quello l'ho dato l'apparecchio, infatti mi stavo, ho tirato a quella a cosa, ho un 80 o un 140 in cambio di quello, capito? Quello che ci voglio dato a lui, perché gli serviva per poter andare in un computer, roba del genere. Quello che mi ha detto che c'erano bruciati i finali, su quello lì sto dicendo. Esatto, no, quello che si era bruciato col fune più che altro. Siccome era senza paracchino, allora me la dice, lo tengo io e mi ha detto, ti do i soldi e basta. Adesso mi deve procurare un 140 o un 80, capito? E così almeno io, vabbè, mi fa anche bene. Va bene per qui, anche perché mi serve per, se sono scoccato a fare le tarature degli apparecchi, con 70 e 140 facevo le tarature in cose, in FM, in AM, era bello, invece con quell'altro era un casino, capito? Dovevo stare, se mi vicino saturava, eccetera, eccetera, quindi almeno con quello mi faccio le riparazioni, se sono bloccato. E alla Ghero ne stanno vendendo uno, un radioamatore, stanno 4.40, l'MC60, il piccolino, l'M43, il microfono, l'alimentatore della ZG, quello grosso da 40 ampere con due strumenti, e il trasformatore, con tutte le scatole, istruzioni e tutto, 400 euro. Vabbè. Dunque, io ho 400 euro. Devo solamente telefonare, più c'è anche la spedizione, a meno che non ci vado in macchina, il discorso è quello, a procurarlo. Se ci vado in macchina mi posso ritirare tutto. Cioè, detto che spedizione vai, anche uno vai, lo fai portare a casa, lo provi, secondo me come andarci, si fa più in fretta. Poi c'è quest'altro tipo che sta vendendo 2,430 e 2,440, allora il 4,40 è completo, anche acceso, però mancano i finali. E gli altri sono a pezzi, diciamo, le radio sono complete, però sono da sistemare. Tutti e quattro, 180 euro spedite. Ho capito. Ma bisogna vedere che è quello che c'è il 4,40 Alghero, come hai detto tu. Non lo so chi sia, hai capito? No, non lo conosco, si chiama Alessandro comunque questo. Vabbè, io provo a dire a cosa, a Stefano. Al limite del telefono, hai capito? Poi ci vado insieme a lui e eccetera eccetera, non lo so. Il nome relativo non lo so, neanche il nome, cioè mi ha detto questo qui, Alessandro, ma su Facebook non è che non so chi sia. No, neanche io lo conosco, però ci sono le fotografie della radio, c'è la scatola, ti fa vedere tutto, sembra in buone condizioni l'apparecchio, poi c'è questo alimentatore grosso, quello della ZG con quei due strumenti da 40 ampere, non so se lo conosci, quello grande. Sì, vabbè, non è che me ne frega poi tanto l'alimentatore, quindi, ma a me basta solo la palapa e basta, non mi interessa altro. L'alimentatore ne ho due, ho quello mio da 30 ampere e poi ne ho due cinesi. Il discorso è quello. Vediamo un po' adesso, lo dico a Stefano stasera, perché non è, cioè, se sta venendo questa roba qui mi sembra un pochino strano, questo prezzo così basso, hai capito? Ne voglio io, cioè, un apparecchio magari che poi ha problemi e una volta preso e mi attacca al tram, capito? Come si dice, mi è piaciuto come dicono, come scrivo tutti. No, ma quei apparati, visto che è vicino, uno vai e te lo fai provare in antenna, così lo pigli la scatola chiusa, non esiste, visto c'è la possibilità che è vicino, anche lo so, 30 km, uno va, si mette d'accordo, lo prova in radio e vede come va, perché il 440 se è rimasto tanto tempo fermo, può darti dei problemi, ti ricordi i puntini, quella cosa che crea sempre problemi. Anche a me. E appunto per quello, non mi fido, non per altro. Per quello perché sul carro armato uso tanto 140, almeno sono più tranquillo. Dormo come si deve, non posso prendere un apparato così da solo, e 440, 450 c'hanno quel difetto lì. Si formano i puntini, eccetera, eccetera, ci sono Claudio un sacco di volte, come ci sarebbe anche tanta gente, quindi non è che mi voglio fidare di nessuno. Una cosa che sia tranquilla, cioè un apparecchio da poter usare, sia tranquillo, come quello mi ha dato Claudio, a me mi si è 80 e mi è durato la bellezza di 20 anni. E quindi una cosa come si deve e basta. Dimmi Claudio. Tanto grazie per la pubblicità, se mi dice io quando do qualcosa l'avevo a posto. Non ti consiglio il 440, soprattutto ho comprato così, perché fino a quando lo compri da me, da uno che conosci, che te lo può dare garantito, mi può stare anche bene. Ma i 440 che ci sono ad Alghero sono tutti 440 vecchi, che non usano mai, che li tengono lì, poi si stufano e si rivendono, e magari sono da rigenerare, da fare, capito? Quindi lascia perdere, trovati un muletto, sia 80 o un 140, ce n'è in vendita, insomma. Ce n'è, sono radio che quelle non danno fastidio, non creano problemi, mentre il 440 è sempre la solita storia, è sempre la solita storia, ripeto, grande radio, l'ho sempre stimata, l'ho sempre avuta per tantissimi anni, venduta ripresa, però poi ho detto basta, finito, mi sono ottenuto il 430 che è simile al C80 e al 140, è un muletto, non crea quel problema, tutto quanto, ma quello ti volevo dire. Poi ti volevo fare un'altra domanda, con le scuse per Roberto, di chi è quel fuoristrada, quel Range Rover o Land Rover nero con l'antenna APLC 1000, che è sempre parcheggiato lì al coso, dietro il rifornitore dove c'è l'albergo? Dentro l'albergo ho preso il testa, non so, che non lo so neanche io. dovrebbe essere il direttore, dovrebbe essere, se io non mi ricordo male, la presenza di 6 anni fa, è capitato lì un direttore di quell'albergo, in pratica sotto al tetto si voleva installare l'apparato, adesso mi ricordo se era radioamatore o cosa di altro non era, la verità si dica, era un po' tempo fa, mi ricordo. Dopodiché, quello è durato sino 3 anni, 4 anni, non di più, dopodiché è andato via e non ha concluso niente. Ho installato i ripetitori telefonici e basta. E, o in lui, non lo so, perché non ho neanche mai sentito a baracchino, mai. C'è la magnetica piazzata lì dietro, verso il cofano, nuova, con le nuove, già l'ho visto anch'io. Non ho mai sentito la verità, e sono curioso anch'io di sapere chi diavolo è, solo che cioè, andare a chiedere di là chi è del calabello di chi è con la macchina lì, cioè, non è che stia bene. Penso che sia il direttore dell'albergo, perché c'è solamente lui. Io l'ho vista con la macchina lì entrare dopo il Covid, c'era solamente con la macchina lì e basta, non c'era altro. Dopodiché una volta che l'ha aperto per la questione del, come si chiama, sono apparsi tutti gli altri, i clienti, i dipendenti, eccetera, eccetera. Non è che li abbia molti, ho visto, perché sono pochi, ma dovrebbe essere il direttore. Se è vero che volevo, informare, tanto per, cioè, se mi pigliava a lavorare lì, che aveva avuto il lavoro di fonte per dire, per fare pulizia e lavorare in genere, invece non, cioè, per vergogna non ci sono andato là, capito? Ma se lo avesse capitato un giorno magari, che non l'ho mai visto fuori, ma se lo avesse capitato che lo vedo fuori, per dire, andando via la macchina, cosa chiedo, glielo chiedo. Se usa baracchino, se usa coso, così, poi magari parlando, se magari una persona è entrata, ma non, io sono, come si dice, no, non ci ho fatto il culo come c'erano gli altri. No, vabbè, era solo una domanda, Antonio, per carità, non è che mi interessi più di tanto, ma la vedo spesso quella macchina, capito, quando scendo da casa. Va bene, ok, dai, d'accordo, vi faccio continuare il vostro questio, al limite ci sentiamo dopo, grazie dei controlli, grazie di tutto, ti rimetto a posto questo microfono e via, ok, Romberto, a te il cambio, vai. Ci sono, scusate, ciao Claudio, ti stavo mantenendo un messaggio. Sì, non l'ho, ho sentito il rumore ma non sono ancora andato a vederlo. Adesso vado, ok, va bene, comunque io QRM non ne ho, forse l'antenna, forse la zona, non lo so, però non ho, ho controllato nel dove ha detto Antonello, ma no, non ho nessun QRM. Ok, ti arrivo bene con questa radio, Tino? Sì, 9-10, bene. No, Robè, ti faccio partecipe che ho scoperto cos'è, dai, adesso stavo macinando in testa tra una cosa e l'altra. Sono tornato indietro di 2 giorni. Cosa è successo? Ho prestato un inverter da 2000 watt, no? Adesso pensando a quello che avevate detto voi, ho provato a staccarlo ed è quello. E quindi sei riuscito a risolvere, allora, meglio così, dai, perché infatti sembrava un problema elettrico, come ha detto Antonello, una cosa costante, non era un disturbo di atmosferico, di proprio sentiva qualcosa di continuo, fisso, per cui sicuramente era quello che ha detto tu. Sì, ma il fatto è che lo stacco e un QRM da 1,5-2, poi massimo sto girando a 3, invece con l'inverter attaccato ce l'ho a 9, quindi è un problema, sì, è risolvibile, ma tanto male che ce l'ho se non lo posso utilizzare, perché ho comprato delle batterie a gel, le sto caricando con i pannelli solari, quindi automaticamente ho messo un inverter per così per le cariche in generale, va. Ehi, a Tino. Sì, dimmi Antonello. Beh, senti un po', adesso te lo faccio sentire. Io quel difetto lì lo trovo subito con quelli portati di cinesi. Senti un po', lo accendo, insomma la senti? Chi sei? Non capisco, non ti capisco. mattino, sto dicendo. Era 0 a Napoli, ogni l'abito tra ieri sera. Sì, a 0 a Napoli. 0 a 0. Ah, e gli ho detto mezzo la sua gente. Ci voleva la Juve, vabbè cosa fa. E l'ho visto sì, Milan. Milan è una grande squadra, il Milan è una grandissima squadra, ma c'è l'allenatore con le palle, no? Come te lo nostro. Siamo perdendo 2 a 0, 3 a 2. Signor partita che ha fatto. E ha fatto i cambi subito, hanno risolto, ma poi una grinta, ho visto quel cazzo di Ecco che non mi è mai piaciuto, lo dicevo sempre, ma cosa ci fa? Ieri era un animale, correndo da tutte le parti, recuperando palloni, proprio mi è piaciuta la cattiveria dei giocatori. Beh, c'è la Neghetti dell'Inter, si sono afferrati perché non hanno buttato fuori il pallone, se è continuato tu per forza che quelli continuano, ma è proprio una cosa schifosa, mi hanno iniziato a sbattere fuori qualcuno, a vedere. Io infatti, se iniziano a prendere seri i provvedimenti, vedi che va meglio, sicuramente. Ma quello, non mi ricordo come si chiama, quello dell'Inter, con la barbetta, non so come si chiama, che ha preso a quel giocatore della Lazio, l'ha tirato, slattonato, e quello la sbatte e continuava, lo allontanavano e continuava. E non aggiungo questo perché non ce l'ha sbattuto fuori, e poi l'ha ammonito a tutti e due. E cosa vuoi ti dica? Non lo saccio. Non ho visto quanto ha fatto la Torres, ma in casa era oggi? No, non l'ho mai seguito la Torres, no, chiedimi qualsiasi cosa, ma proprio la Torres non lo so. Via, e là dove te lo stai usando, qua? Quale? Il 430? Via. Sì, che lo uso, così ogni tanto facendo sempre questo, via 220, per non stare con l'alimentatore, aspetto l'accendo. Una cosa, quel 440 che ti dico io c'ha scritto anche filtri SSB, perché non sono in dotazione i filtri SSB? Sì che sono in dotazione, filtro FM mi sembra che non sia in dotazione. Perché c'è scritto completo di filtri SSB. Completo di filtri lo mettono tutti. Aspetta che cambio radio. E io. Eccomi qua, aspetta che cambio canale. Guarda, cosa è successo qui? Sempre che sta fischiando. Una saguba è questa, cacchia. Sì, non spesso, no. Troppo alto il potente, no. Una saguba. Sì, sì, ho grido, questa è la tua voce. E segnale quant'è con questa? Quasi 9.30, dai, più o meno 9.30. Ehi, ehi, ehi, segnale mio, dai. Va bene, va bene. No, non lo uso molto, tanto non entro mai.